nessuna squadra in questo momento sa a che punto siamo arrivati. Siamo post un'interruzione anomala, nel senso che i giocatori sono stati per 60 giorni su un divano. Uno come sono io in questo momento può essere soddisfatto di quello che ha visto in allenamento, ma poi il riscontro partita è diverso. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E quando se pone il sole con esta canción de amor de Bahía Salvador, oh María, a ti canto yo. Desde que tú me dejaste, desde que ya no estás tú, desde que la sopa cruda come crudo está, ay María, que me faltas tú. Questa è dedicata ad un'amica di Filippo Maria Ricci. Ciao Pierluigi Pardo, tra poco vi spiego ciao, perché. Ciao, ciao. Oggi c'è Giorgio De Luca che ci assiste, già in tensione per il ritorno in campo del Napoli. Invece Filippo Oreggi che è in regia, ne frega niente, ma fa niente, non è questo il problema. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Allora, amica, dedicata l'ho conosciuta ieri sera. È la tua nuova amica. Raccontami questa che è la storia più bella della giornata. Allora, diciamo, visto che si tornava al calcio qui a Madrid, non c'era da muoversi, a Vallecas, no? C'era questa partita di seconda tra Rayo Vallecano e Albacete, che era stata sospesa il 15 dicembre scorso perché davano del nazista a un simpatizzante dell'estrema destra ucraino, che è il centravanti dell'Albacete, in Sosulia. Ho detto, cerco di andare a vedere la partita da un balcone, perché lo stadio di Vallecas è uno dei due stadi, diciamo, dell'elite spagnola, dove si può vedere la partita anche dal balcone di casa. Bene, perché sei vicino. Ero in contatto con un collega di marca che aveva due persone, due persone che potevamo, tra virgolette, disturbare. Una se n'è andata in Cantabria, non so come. L'altra c'ha la moglie incinta, dice pericolo Covid, dice non voglio gente strana in casa, e quindi non è rimasto altro che andare a suonare al citofono. Per cui ieri pomeriggio, la partita era alle 8, verso le 7 mi sono presentato lì in zona, e come me c'era una concorrenza piuttosto folta, erano tantissimi giornalisti, perché ovviamente gli accrediti e per la stampa scritta erano pochissime, poi le televisioni ci sono solo quelli con, diciamo, i right holders, per cui gli altri erano tutti fuori a spasso come me, per cui ci sono questi due palazzi ovviamente molto appetibili. Cominciava a suonare a un certo punto, non mi ricordo se era il 9A o il 9B, suono e risponde questa Maria, e io gli spiego, e lei mi comincia a parlare in italiano, mi dice perché io ho studiato a Firenze, dico vabbè dai vieni va. E quindi sono salito e mi sono accomodato e mi ha raccontato un po' la sua storia. Ecco che di solito quel terrazzino è una specie di curva, e invece ieri c'era lei con un altro paio di amici suoi, così, e poi c'ero io lì con il mio taccuino, il mio computer, per cui mi sono accomodato. Il calcio in Spagna ricomincia così, il tutto è meraviglioso. No, dicono sarà un calcio più primordiale, basico, selvaggio, selvatico. Sì, ieri top del primordiale. Sì. Però scusa, la cosa più bella è la citazione della Madonnina, lì mi sono sentito, non l'avevo mai scritto, è stata una cosa bella, adesso non si può più fare da quando hanno, diciamo, da Italia 90, quindi adesso non è un po' relativo questo adesso, da più di 30 anni che noi andavamo lì al Don Orione, a Roma, arrampicandoci sugli alberi a vedere le partite con mio fratello. Io ero piccolino, avevo 8-9 anni, c'erano gli alberi bassi, salivi e lontanissimo, non so, a 2-3 chilometri c'era anche l'Olimpico e si vedeva perfettamente la partita, tutto lo stadio si vedeva al tempo. C'era anche una Pardo? Foto meravigliosa che devo pubblicare. C'era Pardo? No, non c'era. No. Che anno sei, Phil? Io 67 sono. Ecco. Pardo un pischello. Avevano già fatto le tettoie dell'Olimpico. Sembro tuo zio, ma in realtà no, è la verità. È la fredda cronaca. Sembro lo zio di Ricci, ma in realtà sono più giovane di 7 anni. Ti stai attrezzando per le telecronache dai balconi, sì. Ma bellissimo, no? Quando ho visto ieri quel tweet, veramente mi si è allargato il cuore, come direbbe Mario Brega, sì. mitico, indimenticato attore dei film di Verdone. Mi si è allargato il cuore, perché veramente è una è un esempio, insomma, è un ricordo, è una suggestione di un calcio andato, no? Ci sono ancora nei ricordi degli anni Ottanta, quando vediamo nelle serie minori degli stadi dove c'è qualcuno dal balcone che riesce a vedere qualcosa, insomma. E devo dire poi bello al gol, ragazzi, il gol è stato bellissimo, perché lì non sembrava ci fosse tanta gente, c'era sicuramente meno gente che di solito nella partita classica del Raio, c'è un sacco di gente sul balcone. Ieri io non ne vedevo tanti, però quando hanno segnato il quartiere è esploso, tutti i terrazzi, è bello, perché poi si vede, ovviamente si vede bene, si sentivano le voci perfettamente. Cos'è? C'è dunque un colloquio tra l'arbitro e un giocatore. Amico mio, abbiamo una fame che perfino i gol del Raio l'abbiamo fatto al balcone. Fammi chiedere a Pierluigi, parlo Radio Tweet di oggi, perché sono sempre molto curioso, e poi parliamo di Tebas, perché Filippo Maria Ricci è appena uscito dalla conferenza stampa del numero uno del calcio spagnolo. Pier? Guarda, il Radio Tweet è sul Milan e su quello che è successo, che non è chiaro al 100%, sicuramente Ibra non è soddisfatto del progetto, sicuramente il Milan deve tagliare, sicuramente della delegazione che è andata a discutere il futuro della società più di qualcuno partirà. Quindi ci sono tanti elementi di oggettiva debolezza e confusione. Poi c'è anche il fatto che quando le cose vanno male, anche dal punto di vista mediatico, è più facile accanirsi, no? Sulle società deboli e sui momenti difficili. Non per cattiveria, ma perché è della logica delle cose. Insomma, anche qui il senso di tristezza è profondo, perché veramente quell'inversione che sembrava potesse esserci e che lo stesso Ibra sembrava poter portare, mi pare che insomma sia lontanissima. Il Milan sembra un po' il giorno della marmotta, no? Si torna sempre dal al via. Sì, hai ragione, ma credo che andrà avanti così ancora per un po'. Andiamo invece su discussioni aperte su qualunque cosa. Numero verde 800240024, WhatsApp vocali 349-238-6666. Adesso che ho dato i numeri, voglio sentire da Filippo cosa ha detto Tebas. Allora, conferenza stampa per media internazionali, per l'Italia c'ero io, c'era un collega dell'ANSA, e io gli ho chiesto come ha visto la situazione in Italia. Il collega dell'ANSA gli ha fatto la domanda che tu mi hai fatto la settimana scorsa sull'esistenza di un piano B, e queste sono le due risposte. La prima sull'Italia ha detto, dice, sono stato molto preoccupato per gli effetti collaterali che poteva avere un eventuale non ritorno del calcio in Italia, no? Cioè, dice, come dire, un conto è la Francia, però l'Italia è un'altra storia. E dice, sono stato molto preoccupato, dice, tutti noi, dice, tutte le grandi leghe, dice, hanno avuto al loro interno degli oppositori del ritorno del calcio, in alcuni casi questi oppositori sono stati, diciamo, più numerosi, come per esempio in Italia. Dice, qui da noi è rimasta più una questione privata, e dice, invece da voi, però sono rimasto, ero super preoccupato, e poi dice, curiosamente, poi dice, gli oppositori del ritorno del calcio hanno usato il tema sanitario per i propri interessi. Dice poi, ma se Dio vuole, il calcio ricomincia anche in Italia. Questa è la prima, diciamo, risposta. E l'altra sul piano B, che ha dato la stessa risposta che ho dato a te, dice sì che ce l'abbiamo, ma io, cioè, non lo tirerò fuori, non lo renderò pubblico fino a quando non ci sarà bisogno. E dice, spero che non serva mai, però in caso di catastrofe il piano B ce l'abbiamo, ma dice, ma tutte le discussioni sul piano B sono sterili e soprattutto controproducenti, perché portano a un dibattito su una cosa che praticamente non esiste, che non vogliamo che esista. No? E quindi dice, e anche lì dice, guarda, di nuovo è stato sfruttato per interessi personali da chi voleva che le cose rimanessero come stanno. Più chiaro di così. Però vuol dire che in Spagna sugli altri temi, compreso il piano B, c'è un accordo che da noi stenta ad essere trovato. Sì. Dicevi, Piero? Evidentemente sì, lui dice no. non se ne parla. Sul primo tema colpisce, direi, l'attenzione al dettaglio, cioè il livello di informazione, no? La precisione anche delle parole. Poi lui ha detto, aggiungo solo una cosa, Pier, che può essere utile, dice, no? Che è stato sempre si è sempre in contatto, in contatto quotidiano con Gravina, ha seguito molto. Prego. Si vede da quello che ci hai raccontato, si vede che ha seguito, si vede che ha delle idee molto chiare, molto precise, e diciamo è incoraggiante sapere che l'Italia nella testa di Tebas, e quindi diciamo del numero uno del calcio spagnolo, pesi più della Francia. Questo ci dà un po' di spinta, un po' di coraggio anche per il futuro, fermo restando che, tutto sommato, per il sistema calcio anche il fatto che la Francia sia fermata è comunque un problema, no? Complessivamente. Sul piano B, qui parliamo al solito discorso di noi italiani, quanto ci piace chiacchierare, quanto ci piace polemizzare, giustamente, perché poi insomma non è sbagliato che ci possa essere il dibattito e che l'algoritmo possa anche non piacere, non piace neanche a me l'algoritmo, però è proprio, è tipico, è un po' come i partiti, no? Ci sono dei partiti dove c'è sempre il dibattito e partiti dove le decisioni vengono prese senza praticamente discussioni. Ecco, l'Italia da questo punto di vista il dibattito lo ama, e quindi probabilmente sì. In Spagna nessuno si chiede che succede, com'è sto piano B, qualcuno gliel'ha chiesto, c'è qualcuno che polemizza? No. No, infatti oggi la domanda è arrivata dal collega dell'Ansa, Sì, ma quello è il punto, perché era internazionale dal primo cosa. Giorno, sì. da quando qualcuno ha provato a dire si torna in campo, quantità industriali di non solo di gente comune, gente che scrive sui social, eccetera, ma anche i dirigenti, la prima domanda è che succede se, e che succede se, che succede giusto, se sì, è giusto, ma se non succede meglio. Ma è chiaro, no? Che poi alla fine diventa il dibattito permanente, il dibattito no, ecco. Sì, ma lui ha anche detto, ha anche citato come stata, Tebas, c'è stata, ha detto. Sì. No, c'è stata, esatto, e anche dico controproducente, secondo me è interessante, dice, ha anche parlato dell'eventualità di nuovi contagi, no? Prima cosa lui dice, no, noi abbiamo fatto un protocollo veramente, dice, a prova di bomba, quindi io insomma sono convinto che non ci dovrebbero essere nuovi contagi. Certo, dice, l'unico, ha lasciato aperta una porta al contagio è diciamo nelle case dei giocatori, perché si sta vedendo in questi giorni un barbecue qua, uno là, no. Chi ci arriva, chi arriva in casa non si sa, ieri Semedo, l'altro giorno Jovic, no? Quindi però dice in campo o nella netta, dice, e poi se c'è un caso, dice, bene, viene isolato caso per caso e non va nemmeno subito in quarantena, dice, prima gli si fanno i test, dopodiché viene isolato, poi se si conferma la positività va in quarantena e gli si fanno i test ogni 3 giorni, quando non è più positivo torna. Se ci sono tanti contagi, dice, vuol dire che ci sarà stata una evidente negligenza da parte o delle società. Perfetto. O dei giocatori, e quindi li sanzioneremo. Chiaro, esatto. Vi richiamo al senso di responsabilità, il vostro, esatto, lavoro, comportatevi, esatto, bene, difendetelo. Senti, sì, anche perché diciamo l'ambizione, tornando anche al discorso dei barbecue, è proprio quella di dire che il campo, lo stadio, il centro d'allenamento dovrebbe diventare il posto più sicuro. Cioè, paradossalmente il calciatore rischia di più se va a comprare sigaretta alla moglie al tabaccaio che se sta 2 giorni in ritiro con la squadra. No, ma che... è l'ambizione, e tutto sommato credo che abbia una sua logica questo ragionamento. Ragazzi, ma sono professionisti, è il loro lavoro, quindi devono prendere le precauzioni che servono. Qui begavano su 2 settimane di ritiro in America, l'abbiamo detto molte volte, l'NBA si rinchiude per 2 mesi e mezzo in un posto bellissimo, finché vuoi, ma Euro Disney dalla fine di luglio fino a metà di ottobre, vedi te. Un'altra cosa, Filippo, tanti temi dalla Spagna, tra cui Madrid che vorrebbe al culmine dell'orgasmo da ripresa organizzare addirittura le Final Eight di Champions. Sì. Sì, c'è sempre, a me sembra che per quello che so io Lisbona è sempre in pole, ecco, position, però sì. Madrid è di rincorsa. si è lanciata a Madrid, quella carogna di Pardo vuole andare in Portogallo, che è il suo paese preferito. Portogallo, ragazzi, vince su tutto, e Porto vince con Lisbona. Vabbè, ma queste sono cose mie, sono personali. Per ora è Lisbona con Madrid di rincorsa, ovviamente hanno organizzato la finale l'anno scorso, cioè, però voglio dire, c'è sempre da dire che a livello di contagi tra Lisbona e Madrid non c'è stata storia in questo coronavirus, cioè Madrid è una città anche parecchio colpita, o cioè parecchio è già anche un eufemismo, noi siamo ancora in fase 2 e il resto della Spagna è in fase 3, ci ha già distanziato e non so quando li riprenderemo, per cui va bene la Spagna, Madrid. No. Appunto, per cui così. E altra cosa, se vuoi, che si può rilasciare a questo, è Tebas ha detto che si aspetta già a luglio 10-15% diciamo del pubblico negli stadi, per cui ecco anche quello dipenderà, bisogna vedere anche in fase, in questioni di Champions, vediamo come si mette, sì. Però ecco, sì, c'è il Madrid un po' in risalita, mentre l'Europa League sembra destinata alla Germania, con, leggevo, 4 città candidate, cioè potrebbe esserci una Final 8 in 4 città diverse, sarebbe anche lì molto interessante. Aggiungiamo anche il fatto, perché non abbiamo l'anello al naso, che il Portogallo offre vantaggi fiscali al signor UEFA e quindi è al di là dei Portogallo offre, eccetera, vantaggi anche gastronomici. Ma sì, vabbè, non è che Spagna stiamo male. Adesso no, Pier, perché Pier qua a Madrid ti ho fatto mangiare male. Adesso no, dai. Adesso non essere ingeneroso. Bardo, come Madrid è assolutamente nel mio cuore. Detto questo, insomma, il bacalao è il bacalao. No, io sul Portogallo proprio un problema quasi così. non lo so, forse sono stato concepito lì, adesso parlo degli accertamenti, chiederò. Dopo ne parliamo, chiedi a tua madre. Portogallo? No, tende a escludere. Vabbè, quindi la signora esclude, questa... vabbè. Non c'è questa scelta. Beh, quindi sono cose tue che arrivano a Tavica, che sì, arrivano da lontano. Sono da Tavica, esatto. Sì. Senti, altra storia invece sulla... molto carina, a proposito della possibile riapertura degli stadi. Sappiamo che il Real gioca a Valdebebas, no? Al sì, suo impianto, sicuro. Perché il Bernabeu hanno approfittato l'occasione per dargli una bella sistemata. E l'Atletico Madrid ha detto: ma se volete giocate a casa nostra, ma che problema c'è? Abbiamo uno stadio nuovo. E gli hanno detto di no. E gli hanno detto di no, penso. Gracias, però no gracias. Ma era una bella idea. No, idea molto no, era una bella idea. E tant'è vero che ti dico una cosa: ieri hanno fatto un sondaggio su AS. E la maggior parte della gente ha detto sì sì andiamo, e poi c'era Thomas Ronsero che diciamo nasceva come giornalista, adesso è tifoso del Real Madrid, su AS ha fatto un video dicendo sì bellissimo, andiamo a vincere la Liga lì al Wanda con, dice almeno lì potremmo avere 20.000 persone con noi, se facciamo a Valdebebas al massimo ne abbiamo 2.000, perché comunque no, bisogna calcolare, si calcolava un 30%, adesso Tebas l'ha anche abbassato al 10-15, dice comunque avremo pochissimi tifosi, invece al Wanda potremmo avere tanta gente e non è male. E per cui l'idea era piaciuta, però il Madrid ha declinato l'invito e preferisce giocare lì e anche senza pubblico e basta. Insomma, questo comunque devo per dire ora... che mi riempie di gioia, e poi chiaramente un minimo di rischio ci sarà, ma spero che venga calcolato questo rischio. Vedere l'accelerazione che ha fatto il tema dei tifosi, no? Pochi due o tre settimane fa sembrava impensabile, si diceva chissà per quanti mesi avremo lo stadio chiuso. Adesso, no, ovviamente... qui siamo già a luglio. Ecco, 15-20 mila persone, non sono 60-80 mila, certamente l'abbiamo detto, capisco il punto di vista, soprattutto di chi va in curva, vedere la partita ammassati uno accanto all'altro può avere sicuramente il suo fascino, e qui per ovvi motivi verrà proibito, però anche è il solito discorso, piuttosto che niente è meglio piuttosto, no? Certo. Meglio stare a 5 metri dall'amico tuo, ma comunque... poterti abbracciare virtualmente piuttosto che guarda, tra l'altro, a proposito, in Spagna, tra le mille altre cose, incomincerà la stagione del Moto Mondiale in Res della Frontera il 19 di luglio. Tra l'altro, anche lì, a proposito del pubblico, c'è l'idea di, strada facendo ovviamente, aprire anche alcuni autodromi, ma anche lì non si useranno le curve, cioè i prati, si useranno le tribune numerate, e quindi facendo entrare la gente soltanto lì, mi sembra una soluzione. Il distanziamento, no? È normale. E Carlo, mi permetti un'altra cosa che può essere interessante anche per voi, che ha detto Tebas. Dice la stagione in Liga riaprirà il 12 settembre, e ovviamente c'è il problema delle squadre spagnole che giocano nelle competizioni europee, esattamente come le italiane, no? E dice benissimo, dice non possiamo fermare tutto il movimento per aspettare una, due, tre, quattro squadre, per cui saranno loro a doversi adattare. Noi ripartiamo il 12 e chi gioca in Europa League, in Champions League, vediamo a che punto diciamo arriva, dopo devono fare le vacanze e poi gli faremo un piano apposta per fargli recuperare le partite che non hanno giocato. Totale buon di nuovo senso. A me sembra buon senso e andare avanti. Ma no? Certo. Questo ovviamente riguarda anche l'Italia, no? Tra l'altro, facendo una scelta che potrebbe penalizzare, perché comunque un po' di traffico ci sarà, no? Un po' di affollamento di partite, potrebbe penalizzare le squadre più forti, più ricche e più potenti, quindi questa diciamo è una mossa veramente... Anche quelle che hanno le rose più lunghe e possibilità di organizzarsi maggiori, Pierre. Però c'ha ragione Pierre, continueranno a giocare ogni tre giorni. Dal Barcellona a dirgli che devono avere un calendario pessimo perché per colpa loro vanno avanti nelle coppe europee, no? Insomma, è abbastanza... No, c'è molta determinazione in questo senso, devo dire, questo Tebas è una macchina proprio, cioè va avanti per la sua strada e protegge molto, per me, il movimento, ha molto chiaro l'idea del movimento, dei soldi che genera e che sono generati da tutti e non solo da uno o due club. A me visto da fuori piace, dico la verità, poi non ho chiaramente il livello di conoscenza che ha Filippo, che ogni giorno... a che fare con Tebas, però mi sembra appunto che questa determinazione sia e questa mossa qui, questo aspetto qui del sovraffollamento delle squadre che faranno le coppe europee è veramente particolare, no? Perché va nella direzione appunto di favorire i deboli, favorire i piccoli, no? rispetto ai grandi. Quindi, però ripeto, però non puoi far aspettare noi il 19 luglio. Non è che puoi far aspettare gli altri fino a ottobre, quelli hanno smesso il 19 luglio, il 12 settembre tornano a giocare. Comunque, speriamo che il Barcellona non abbia una lunghissima esperienza europea, perché vorrebbe dire che Napoli, che Napoli passa il turno, però sì, sì. Al di là di questo dico in generale, insomma, andare dai l'8 agosto club, Barcellona in vacanza, dai. Esatto, 8 agosto tutti sì, ah, sì, sì. 8 agosto in vacanza. Non c'è dubbio. Anche il Siviglia, il Getafe, sono tante quelle che devono andare in vacanza presto. Esatto, ma a me che giocano comunque, tutte con le italiane. Comunque, Siviglia, Getafe e Barcellona. Al di là di tutto, a me piace moltissimo il modo in cui è stata gestita da Tebas tutta questa situazione, sì, questa vicenda, con grande autorità ed autorevolezza, no? Ricorda, Pierre, ne abbiamo parlato anche qui molte volte, davvero un commissioner di una Lega, non uno messo lì a fare Kofi Annan mentre da una parte sparano e dall'altra pure. Sì, sì, sono d'accordo. Cioè, a un certo punto bisogna prendere delle decisioni, questo è indiscutibile, perché se si continua il dibattito che piace tanto giustamente agli italiani, io poi sai che sono un sincero democratico, quindi tendo anche a considerarlo positivo il dibattito, però ecco, insomma, a un certo punto una sintesi va trovata e mi pare che Tebas nel trovare la sintesi sia abbastanza risoluto, diciamo. Sì. Adesso voglio sapere no, su quale balcone vai a vedere il derby di Siviglia stasera. Ah, no, purtroppo, bello, quello mio di casa, ah, qua davanti, sai che davanti a casa mia hanno girato la casa dei Papel, quindi ecco, insomma, è un bello scenario, però siamo qui, sarò col professore qua con Lisbona, cosa, ecco. Tra l'altro lì no, assomiglia anche al professore, lo sappiamo. Sì, certo, sì, a tanti, sì. Ricky Memphis, un tempo dicevano Hugh Grant, poi il professore, qua sì, proprio, ce l'avete... poi ne parliamo. Tu confidi nel mezzo radiofonico, che non proprio tutti, certo, gli ascoltatori chiaro, ti conoscono, quindi io credo. No, quindi stasera il terrazzo. Io più Matera, certo. Stesso lineamento, comunque, stessa. Terrazzo di casa, caro Carlo, perché no, ancora non ci muoviamo. Per dirti anche, domenica si gioca a Valdebebas, sono rimasto fuori. Sai quanti ci sono giornalisti di carta stampata ammessi? 6. Quindi sì, i 2 quotidiani sportivi, quindi Marca, As, e i 4 quotidiani politici della città. Questo è anche un tema serio, anche perché oltre ai giornalisti della carta stampata, delle TV, delle radio, eccetera, anche i fotografi sono contingentati, saranno contingentati nel campionato italiano, quindi questo crea degli altri temi. Sì. Non vorrei che diventasse una roba, diciamo, corporativa, anche perché proprio non sono affatto corporativo, sai bene che... Però, insomma, francamente mi sembra che anche da questo punto di vista... Cioè, comunque garantire a più giornalisti di poter partecipare significa garantire una maggiore copertura. Insomma, se si pensa che la stampa abbia un'utilità nel racconto del reale, francamente mi sembra abbastanza incredibile. Sono assolutamente d'accordo, perché no, alcune tribune stampa sono grandi, dai, potevano, appunto, per me qualcosa in più. Ti dico, Valdebebas è un caso eccezionale, ovviamente lo stadio è piccolo, 6.000 posti, lo capisco. Però adesso non so, per esempio al Camp Nou non ho neanche chiesto, perché non è che vado a Barcellona a vedere la partita, a parte la prima è a Mallorca, però lì anche al Wanda, vuoi dire, ci sono stati 1.000 giornalisti per la finale di Champions. Dai, diciamo, dico, se me ne metti 6. Quindi stasera balcone aperto a casa tua? Sì, balcone aperto per la televisione, Maria, così per il freschito, niente, ci vediamo questo gran derby, che è una partita assurda da vedere senza pubblico, Cioè, è presente quando cantano all'inizio al Sanchez Pizjuan, quando cantano l'arrebato, tutta la gente a cappella, spettacolare. Stasera un po'. Vabbè, va. Intanto ce lo prendiamo per buono, perché abbiamo fame. Sì, esatto. Grandissimo. Abbiamo fame perché è come l'insalata dell'altro giorno, di Conceição, l'insalata scondita. Devi sapere, è un'insalata assolutamente scondita, sai come la penso, ma è un esercizio di immaginazione anche per gli stessi calciatori. Devono sapere che i tifosi ci sono, che sono momentaneamente impossibilitati a venire allo stadio, ma che sono lì. Cioè, stasera la partita, sono curioso di vedere gli ascolti in Spagna, ma la vedranno tutti, e non è che la vedranno con meno passione o con meno entusiasmo. Poi sono particolarmente felice che si stia facendo un passo avanti importante, perché l'obiettivo deve essere di portare la gente subito, prima possibile, allo stadio, ovviamente in sicurezza, senza rischiare, però ecco. E il paradosso è che tu pensa alla struttura degli stadi italiani, no? Quindi con i tornelli, vedi che... Sì, che c'hai fame. C'hai fame vera. Sta fame proprio. Atavica, come il Portogallo. E i tornelli e tutti i controlli, eccetera. E tutta quella roba lì, di fatto, poi diventa forse il problema principale, no? Perché è il momento del maggiore possibile assembramento. Eh sì, sì, dovrebbero essere con le porte più aperte, così sarebbe più semplice. Magari troveranno un modo per evitare sì, con meno gente. Senti, esatto, poi parlerò poi gli orari, più diciamo. Tardi parlerò con Sandro Sabatini, tra gli altri, del fronte televisivo, perché ci sono delle novità in Italia. In 30 secondi mi racconti quella del calcio gratis per i nonni? Sì, che hanno messo ovviamente le residenze per anziani, la Liga gli ha concesso, diciamo, il segnale. L'unica concessione aperto, che ha fatto insomma. Tebas, però. Sì, assolutamente. E per il resto non molla niente. Partite no, non molla niente. No, no, ce n'è una perché proprio ce n'è contratto, una, ma c'era anche prima, una no? Partita in chiaro. Esatto, c'era anche prima, esatto, quindi non è cambiato niente. No, no, qua tutti devono pagare, anzi oggi ha anche detto, dice guarda, comunque durante la pandemia dice abbiamo fatto nuovi contratti in Belgio, in Scandinavia, così, abbiamo preso pure più soldi. Ecco, sì. Così. Beh, insomma, ma anche in Germania, rinnoveranno al rialzo. Leggevo oggi, ma ne parlerò più tardi. Intanto vi saluto. Ciao Filippo, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Buona partita sul balcone, ti penso. Vai al tornello, ciao Pier, a domani. Allora, fermiamoci per la borsa, poi torniamo, sarà con noi il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, con cui ho diverse cose da chiedere, insieme a Sandro Sabatini. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Ti faccio una domanda: è meglio giocare una partita dopo 5 mesi o giocare una partita dopo 14 partite in 40 giorni? Non lo so, so che una lunga inattività si paga, solitamente però nella mia esperienza ti dico che non si paga la prima partita. Chiaramente sarebbe un vantaggio se dovessimo giocare 3 partite nel giro di una settimana, un trilione, ma nella partita secca penso che non ci siano grandi ripercussioni. Con grande piacere, un po' di sano accento toscano. Ciao Sandro Sabatini. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao, salutiamo insieme anche il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi. Buongiorno presidente. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ho sentito Maurizio Sarri, chi era questo qui? Sì, era proprio lui. Lo conosce abbastanza bene. Abbastanza. Poi le chiedo di Sarri, ma prima mi dica. Appunto, mi dica come procedono i lavori da quelle parti. No, noi bene, siamo contenti. Per ora non ci abbiamo intoppi e speriamo di riprendere, perché questa cosa del Covid, del positivo che ferma, mi dico come si dovrà risolvere, e si dovrà risolvere con un'altra soluzione, speriamo, perché è l'unico stato campionato in Europa che ha questa spada di Damocle. Sì, sì, non c'è dubbio, dato che siamo italiani, molti pensano che la soluzione verrà trovata in extremis, cioè a mezzanotte del giorno in cui si parte, Sandro. Speriamo qualche giorno prima, quantomeno per non avere certi pensieri, perché sai. Questo è chiaro. Dicevi, Sandro? Che spero che si trovi, si deve trovare, non si deve sperare, perché è giusto uniformarsi. Noi ci stiamo uniformando, capito, in tutta questa cosa globalizzata, chiamiamola cosa globalizzata, che significa virus e conseguenze del virus, ci stiamo comunque uniformando all'Europa e al mondo. Fare gli originali soltanto per la quarantena di 14 giorni per tutta la squadra e per la squadra avversaria mi sembra qualcosa di difficile da capire. Ecco. No, difficile da capire, ma anche da praticare. È così, e poi io non riesco a valutare se sei a tutela degli atleti, che mi sembra che come tipologia di lavoro, per le precauzioni che stiamo prendendo, oggi sono i lavoratori più tutelati del sistema, sì, diciamo così, economico lavorativo in Italia, perché le precauzioni, io conosco molte aziende un po' che vengono prese con questi ragazzi e che sono veramente giuste, ritengo giuste, magari c'è qualche cosa un pochettino di eccessivo, ma giuste, e dall'altra parte in altri ministeri, in qualsiasi altro tipo di azienda, non è così. Se poi si riferisce che attraverso loro ci sia ovviamente un, si inneschi un meccanismo di contagio. Ma è veramente, sono perplesso anche in quello, perché poi alla fine si tratta di ragazzi completamente isolati, ipercontrollati, al limite del controllo ce l'hanno, il contatto ce l'hanno solamente con le loro famiglie. No, ma come Presidente, come diceva, ne parlavamo prima anche declinando il problema che non esiste in realtà in Spagna, e diceva Pierluigi Pardi, in questo momento per un giocatore è più pericoloso andare dal tabaccaio a prendere le gomme da masticare per la moglie piuttosto che giocare. Senta, qual è la sua idea su quello che è successo in questi ultimi 4 mesi? No, insomma, ci ha dimostrato che il nostro sistema, come così difficile nella gestione politica, anche in questo sistema calcio c'è stato, diciamo, una divisione totale. Ovviamente ognuno cercava di portare l'acqua al proprio mulino, in maniera anche piuttosto squallida in qualche caso, perché probabilmente si confida sul fatto che in qualche maniera si voglia condizionare le scelte di chi le deve fare con le proprie idee. Diciamo, per una caratteristica italiana, non so se in Grecia o in Tunisia ci sia lo stesso tipo di mentalità. Di sicuro in Francia, in Germania, nei paesi più evoluti non è così. C'è un allineamento e ovviamente un senso di responsabilità, ma ovviamente c'è chi se deve prendere questa responsabilità e deve operare in autonomia. Ecco, io invece c'è entrato di mezzo il mondo, compreso 1000 specialisti in materia, che ognuno ha detto la sua, uno al contrario dell'altro. Sandro, che secondo te c'è qualche insegnamento che potrà essere tradotto in modifica, in riforma da questo periodo? Ti aspetti che qualcosa succeda? Guarda, mi fai una domanda troppo impegnativa, perché noi siamo partiti 3 mesi fa dicendo andrà tutto bene, poi tanto bene non è andata. No. Ecco, e quindi qualche insegnamento è troppo, facciamo che ci risentiamo un'altra volta, così prendo un po' di tempo. Una cosa è sicura, le parole che ha detto il Presidente Corsi mi colpiscono, perché mi confermano, capito, il tentativo di portare l'acqua al proprio mulino. A me mi è sembrato di vedere delle volte tanti presidenti, voglio mettere tutti, dalla Serie A e la Serie B, che si mettevano lì con un fogliettino Excel, tanto rimetterci dei soldi, tutti ci rimettevano dei soldi. Qual è la cosa più conveniente? Per alcuni la cosa più conveniente era buttare tutto a monte, e allora hanno detto ma per rispetto dei morti, per paura del virus, perché non si può, perché è meglio settembre o robe del genere, quando invece era il responso che gli arrivava dai loro conti, sia sportivi, cioè la paura di retrocedere, sia anche economici, cioè il fatto di non pagare degli stipendi e punto e basta. Poi io, che vuoi che ti dica, io sono contento che si ricominci domani sera, anche se non sarà il calcio che abbiamo lasciato, però sono contento che si ricominci domani sera, e piano piano che ricominci poi la Serie A, e piano piano che ricominci poi la Serie B, perché ne abbiamo bisogno, ne abbiamo semplicemente bisogno, sotto tutti i punti di vista. Ma anche perché è naturale che sia così, il discorso che abbiamo fatto molte volte, è un'attività produttiva che riprende, stiamo parlando di professionismo, non stiamo parlando di semplicemente di un passatempo. Presidente, le chiedo ancora questo, sul suo amico Sarri, la sta convincendo questa esperienza? Che cosa si aspetta da Sarri dopo un periodo così strano? Ma sai, io sono un tifoso, sono anche un simpatizzante della Juventus per la simpatia che lega il rapporto con i dirigenti, che peraltro l'ho anche in altre società, però con loro in maniera particolare. Io faccio il tifo per loro al divano, poi insomma fare dei ragionamenti sulla gestione mi risulta difficile. Se non che ovviamente si è visto degli sprazzi di questo sarrismo in molte partite, diciamo. Ora l'ultima, quella con l'Inter, direi neanche insomma sportivamente entusiasmato, è ovvio, perché poi questo entusiasmo ritorni, diciamo così, in tutti noi, ci vorrebbe il pubblico, ecco. E non curiosisco il fatto che negli altri paesi stanno già cominciando a pensare gare con Puglio, mi auguro che sia una componente del Paragio Italia, perché mi trovo concorde con voi che di fatto ne abbiamo bisogno, e ecco, è una cosa che ci può regalare una distrazione e anche sollievo, vorrei dire, al di là che poi i tifosi vivono, ovviamente viviamo al nostro modo l'esperienza della domenica, della partita, nel bene e nel male, però quantomeno ci distoglie da dei problemi, ecco, dei problemi che poi ci sono oggi a livello economico, probabilmente ci saranno ancora dubbio. Di più, non c'è ci dubbio. Saranno ancora di più, ecco. Non, e non fa partire il calcio mi sembrerebbe innanzitutto un segnale, diciamo, brutto dal punto di vista emotivo per tutti noi, e poi anche un segnale brutto di un paese inefficiente. Sì. Un paese inefficiente rispetto a tanti paesi che teoricamente sono più indietro di noi, ma stanno andando oltre alle difficoltà che si possono trovare, e noi subirla. No, sicuro, sicuro. Dicevi, Sandro? Voglio fare una battuta. Quando leggo i tedeschi, che ovviamente... Ma i tedeschi, tra l'altro, ma anche gli spagnoli ci stanno guardando con grande attenzione, l'ha ripetuto oggi Tebas. Dicevi, Sandro? Voglio fare una battuta al Presidente, che lo sento non un po' giù di corda, ma un po' troppo riflessivo. Allora, lui fa il tifo per Sarri, ed è facile capire perché. Farà, immagino, anche un po' il tifo per Bennacer e Krunic, che però giocano nel Milan. Farà un po' il tifo anche per Di Lorenzo, Zielinski e Mario Rui, che giocano nel Napoli. Alla fine, caro Presidente, l'unica squadra per cui non fa il tifo è l'Inter. L'anno scorso quella ti ha mandato in Serie B, giusto? Sì, no, ma io lì c'ho amici, c'ho persone che ci stimano. Per esempio, le dico che stiamo facendo una collaborazione molto attiva a livello di settore giovanile. Ah, okay. Io l'anno scorso le ho dato un giocatore che sono convinto, un 2003 campione d'Italia, perché noi l'anno scorso l'Inter l'abbiamo subito la sconfitta, ma l'abbiamo battuta in finale allievi. Per gli allievi, per lo scudetto, abbiamo vinto lo scudetto, l'Empoli ha quattro nazionali, l'Empoli, la nostra piccola realtà ha quattro nazionali quella formazione, e uno l'abbiamo dato, il quinto l'abbiamo dato, uno all'Inter e uno alla Juventus, perché sono sorte difficoltà di gestione, uh-huh. E giustamente il mio amico Beppe Marotta mi aveva anche un pochino stuzzicato in merito, in maniera molto cordiale, molto quindi anche con l'Inter, anche un pezzettino di tifo per l'Inter c'è. Grazie Presidente, bocca al lupo. Grazie a tutti voi. Grazie Presidente. Sandro, ti rimani con me, perché ti devo chiedere delle cose a partire proprio dall'Inter. Ci sono alcuni WhatsApp che voglio farti sentire dopo il traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Ah, gli anni 90, che anni, che ritmo. Nord, sud, ovest, est, è forse quel che cerco e neanche c'è. Ma sì che c'è. Se cerchi un software gestionale che ti permetta di gestire i tuoi processi aziendali, sempre e ovunque, in ufficio, in viaggio, in smart working, in cloud, oggi c'è! Con Fluentis hai tutte le funzionalità di un ERP evoluto, completo di CRM e di Business Analytics, per analizzare i tempi e ridurre i costi della tua attività. Non ci credi se non vedi? Vai su fluentis.com, scarica l'app e inizia subito la tua prova gratuita. Fluentis, la F che funziona. Tutti convocati. Conte sta mettendo le mani avanti, ti sta mettendo il ferro dietro la porta, capito? Lui è uno che si deve lamentare. Si dice lamentate che ti trovi bene. E lui si deve lamentare. Così se non riesce ha la scusante. Se riesce... ce l'ha fatta contro tutti. Trovo abbastanza imbarazzante usare la pandemia a distanza di mesi, quando tutto sta ripartendo, come scusa per il fatto che il tuo campionato sostanzialmente è finito nel momento in cui hai perso a Torino. Perché se l'Inter avesse vinto a Torino, vorrei vedere Conte cosa starebbe dicendo adesso nello spogliatoio ai suoi ragazzi. Ecco, c'è una cosa, Sandro Sabatini, che io non riesco a capire. Ho provato a chiedere anche ieri a Biasin, ma perché l'Inter è così restia a riprendere la stagione? Cioè, sembra quasi lo faccia, vabbè, dobbiamo, dice Marotta, dobbiamo farlo, ma perché ci sono soldi in ballo, per le TV, però dovendo scegliere preferiremmo di no. È in corsa su tre fronti. Non lo so, i tifosi stanno, mi sembra che dalle telefonate e dai WhatsApp audio che hai fatto sentire, i tifosi stanno individuando in Conte quello che voleva, che in qualche modo ha influenzato le opinioni di Zhang prima e di Marotta e di Marotta poi. Io sinceramente però non lo so perché l'Inter è così restia. Io credo anzi che a vedere il calendario, e qui sfido magari la scaramanzia di qualche tifoso, ma io a vedere il calendario, le prime 4-5 giornate l'Inter ritorna assolutamente a tiro scudetto. Ma d'accordissimo, sono d'accordo con te, ma anche con Chiellini a monte, no? Ha detto io l'Inter, nessuno la cita, ma la vedo ancora in corsa, vincono il recupero con la Sampdoria, si portano a meno 6 e poi avere Conte in un mini torneo breve come quello che sarà del tutto strano, sei in corsa ancora in Coppa Italia e vediamo che succede a Napoli e eventualmente in finale, sei ancora in Europa League, insomma con buone possibilità, insomma io vedo, non capisco le ragioni di questo atteggiamento. Neanch'io, poi non lo so, forse magari fammi fare una battuta, anche se poi non sono un comico e non sono neanche un umorista, quindi le battute delle volte sì, mi riescono bene e delle volte no, non vengono apprezzate. Cioè magari Conte è uno di quegli allenatori che soffre più degli altri l'assenza di pubblico, perché è un allenatore che interloquisce con il pubblico, capito? Sì. Si agita, chiama l'applauso, capito? E quindi nello stadio a porte chiuse probabilmente sembrerà di vivere una partita dentro il frigorifero, non lo so, ecco, proviamo a trovare anche questa di giustificazione, cioè una giustificazione, è calcio a porte chiuse per tutti, certo, è calendario uguale per tutti, anzi Juve e Inter hanno una rosa più ampia, sicuro, di tutti, e quindi possono essere più favorite. Cosa ne pensi dell'idea, così en passant, di eliminare con questa rapidità, in modo così repentino, i supplementari dal regolamento della Coppa Italia? Ma guarda, io mi sembra che sia una regola, cioè se le partite di Coppa Italia fossero state lì a punteggiare le partite di campionato, capito, in qualche mercoledì tra delle domeniche, se fosse partito domani sera il campionato anziché la Coppa Italia, io magari togliere i supplementari per delle squadre che erano già affogate nelle loro fatiche di tre partite a settimana l'avrei fatto. Domani sera perché è la prima partita, diciamo che è un'anomalia che queste squadre non hanno fatto neanche un amichevole, cioè è la prima dopo tre mesi, sì, questo è vero. Quindi mi sembra un piccolo sollievo, dai, come le cinque sostituzioni che poi però scommetto nessuno farà. Sì, senti, invece un altro tuo amico toscano, pure lui manca a dirlo, Allegri, ho letto quella di Spinelli, ma è vera, che l'ha invitato a Monte Carlo per dammi una dammi qualche consiglio per salvare Livorno, perché siamo ultimi in classifica, non si può fare. L'aveva chiamato anche il Cagliari Allegri, capito? Giulini aveva provato a sentire se prendeva il posto dopo Maranghi. Fa consulenze, capito? Fa consulenze. Fammi fare una battuta, l'unico che magari, visto quello che sta combinando Gazzidis, che magari poteva servire una consulenza, nel pieno rispetto di Pioli, però ci siamo capiti. Caro mio, Gazzidis che si è ripresentato a Milanello e si è davanti a Ibra, ma te dove eri finito? Dove stavi quando servivi? Povero Milan, ha ragione Pardo nel radio tweet iniziale, no? Milan sembra giorno della marmotta, ogni volta ricominci da capo. Ciao Sandro, grazie. Ciao Carlo, ciao, a presto. Ciao, virtuale ma un abbraccio. Virtuale ma presto personale. Giovanni, provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Niente, volevo solo dire una cosa semplicissima. Con tutti i politici, con tutti quelli che può darsi che non ci sono arrivati a pensare a una cosa del genere, visto che fanno fare le partite a porte chiuse, non era il caso che almeno chi è che c'aveva l'abbonamento, così almeno le società non dovevano rimborsare gli abbonamenti, mettere ogni tre sedili una persona che ha già pagato l'abbonamento, ci stava il minimo di pubblico, le società non dovevano rimborsare e i giocatori si vedevano lo stadio un poco pieno, Quello è il punto di arrivo cui stiamo tendendo, no, Giovanni? Cioè, il problema è che al momento non si può. Poi il punto di arrivo potrà essere proprio quello di fare entrare quantomeno gli abbonati. Tra l'altro, in Spagna, ne abbiamo parlato la settimana scorsa alle Canarie, c'è Las Palmas che ha proposto proprio questa soluzione. Ormai i problemi sanitari sono in via di soluzione. Lo stadio, siamo in Serie B spagnola, in seconda divisione, lo stadio da 30.000 posti, gli abbonati sono 10.000, un terzo della capienza riuscirebbero a far entrare gli abbonati allo stadio. Quindi questo, il problema è che al momento non si può. Poi strada facendo potrebbe essere certamente quella una soluzione, poi quello del rimborso degli abbonamenti è un altro lungo tema che dovrà essere risolto, perché la maggior parte dei club non rimborseranno gli abbonamenti. Mi auguro quantomeno che possa valere la prospettiva del voucher per gli abbonamenti a venire. Altro tema interessante, oggi non riusciamo a trattarlo, è quello delle televisioni, perché stavo leggendo che in Premier, ad esempio, il clima è totalmente opposto a quello italiano, e cioè addirittura ci sono le TV che hanno già pagato l'ultima rata, ma i club hanno deciso: no, ve ne diamo una parte, perché le partite sono in orari diversi, in un periodo diverso, quindi siamo in debito nei vostri confronti. Pensate un po' come sono lontani da quelle parti rispetto a noi. Grazie a Giorgio De Luca che oggi ci ha assistito, Claudio Schiattone in redazione, Filippo Reggi, Gianmarco Ferronati in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.